Roberto Di Varese, cambia, metti sulla Zanzara. Vai là, veloce anche. Vai sulla Zanzara, tu devi ascoltare quei programmi lì. Non ascoltarmi, te lo ordino. È un mio diritto. Ho il diritto di non essere ascoltato da gente come te. Ho il pieno diritto. Vai sulla Zanzara, vai! La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ascolta, è perché vuole credibilità, vi crede, perché vi vuole bene, perché si affeziona a voi, perché non può sentire altre parti dove tutto è leccato, invece qui culo è culo, capito? Questo è. Zanzarosi, contattateci all'800 24 00 24 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Allora, cominciamo con Di Battista, 5 Stelle, che parla di Renzi come un mafioso. Ieri sera, Piazza Pulita, vai. Detto da lui che non è passato per le elezioni e parla appunto sui referendum e invita a non andare al voto come referendum sulle trivellazioni, lui che parla appunto di democrazia è credibile appunto come i mafiosi che qui a Roma sostengono il Partito Democratico. Ma il problema... A un certo punto, durante la trasmissione, vabbè, ma è un paragone, non ha detto Renzi è un mafioso. Ma come no, si è fatto rappresentare, ma che è un gioco di parole, si è fatto rappresentare dietro con quella piovra, la piovra che cosa vuol dire? La mafia, dai, su, stupidaggine. A un certo punto, Formigli litiga con un rappresentante del Partito Democratico che si chiama Taddei, che peraltro non è manco in Parlamento. Che è responsabile economico. Sì, vabbè, insomma, una carica finta, totalmente finta. Come? No, finta, è l'uomo di Renzi finta. Al partito, ah, quello sì, che si occupa delle strategie economiche. Ma quali strategie economiche? Di che Taddei stiamo parlando? È l'uomo di fiducia di Renzi, sì, ma scherzi. Ho capito, ma non finto. Decide nulla, niente, zero. Come non decide nulla? Ma dai, su, ma siamo seri, dai. Come? Ma dai, su. Come? Tenevo anche ci fosse la sua risposta, ma lei le pare che io possa pensare pensare che il presidente del Consiglio è un mafioso? Lei pensa che io possa pensare una cosa del genere? Lungi da me farlo, infatti per questo è evidente che io prendo le stanze, dopodiché in diretta un esponente politico, purtroppo voi vi dovreste levare l'immunità, così queste cazzate, scusate il termine, non le dite più, levatevi l'immunità, fate una bella legge, così quando uno dice una cazzata del genere l'altro lo querela e paga, come paghiamo noi giornalisti quando diciamo le fregnacce, d'accordo? Grazie. Allora, devo dire che in questo caso Formigli ha ragione al 100%, l'immunità sulle parole è un'altra follia che ancora rimane, no? Cioè i parlamentari hanno ancora l'immunità per le espressioni pronunciate durante il loro mandato, un'altra cazzata, cioè se io dico Parenzo è una testa di cazzo che va soppressa e lui mi querela, io alla fine sono costretto a pagare se vengo riconosciuto colpevole. Certo. Se invece un parlamentare dice Pink la stessa cosa, può dire no, io lo dico in quanto parlamentare. E che vuol dire? Sempre un'ingiuria è, sempre appunto. Un'infamia è. Bisogna togliere questa cosa. Però la contestazione non va rivolta a Taddei, che non è manco parlamentare. Andava rivolta in questo caso a Di Battista, che ha dato del mafioso a Renzi. Vabbè, ma la politica è noiosa, noiosissima. C'è questa cosa qua della Boschi che dice che chi vota no al referendum è come Casa Pound. Abbiamo anche l'audio, ne abbiamo parlato già ieri. Una noia mortale. Dunque, quelli della sinistra del PD, scusatemi se uso questa espressione, questa bestemmia, la sinistra del PD, cioè l'opposizione a Renzi, dico, non vogliono essere paragonati a Casa Pound. Ma la gente che cazzo gliene frega di queste boiate, di queste puttanate? Più volte io ho sentito equiparare chi vota sì alle riforme costituzionali a Verdini, dicendo che chi vota sì vota insieme a Verdini. E in un incontro pubblico mi sono limitata a dire che chi vota no come Casa Pound. Ho semplicemente fatto una constatazione. Vabbè, adesso non ci pigliare per il culo, puoi pigliare per il culo qualcun altro, ma non pigliare per il culo noi che seguiamo la politica quando tu ancora non eri nata, cara Boschi. Il punto fondamentale è un altro: quando uno accosta Casa Pound a chi vota no al referendum, significa che vuole denigrare quelli che votano no al referendum, certo. Perché è evidente che all'interno di una certa comunità quelli di Casa Pound sono visti come dei mostri, come dei fascistoni, come dei pezzi di merda, come degli infami da limitare e da emarginare. Per cui se tu, è come dire, votano anche i respirariani, votano no. Anche i che cazzo beh, vuol però dire? Però quelli sono diversi dai fascisti. No, ma per dire, no, sì, cioè, però, non, certo. Non c'entra assolutamente nulla. Se tu nomini quella roba lì è perché vuoi denigrare quelli che votano. Per cui hai detto una boiata. Allora, a proposito però di elezioni a Roma, il candidato ormai diventato berlusconiano, Marchini, ha parlato dei gay e ha detto che non registrerà una coppia gay. Per come io conosco Marchini, questa roba qui l'ha detta perché è candidato ormai di Berlusconi e di una parte del centrodestra. Altrimenti non credo che ci... Sì, probabile. A meno che non lo dica dicendo queste cose qui non servono a nulla, il comune non può fare niente intanto, gesto per cui è inutile, rimane. È inutile. No, ma io sono d'accordo. Cioè, finché non c'è una legge, è inutile che i comuni si inventano le registrazioni delle coppie gay, tutte cose inutili, totalmente inutili. L'ha fatto pure Marino, figuriamoci un po', nessuno se l'è filato. Ha fatto una baracconata lì, ti ricordi, al comune con tutte le coppie gay. Per sì, carità. Ma quelli sono gesti simbolici che possono d'accordo, anche però servire. Non poi... servono a niente. Comunque, sentiamo Marchini. Celebrerà un matrimonio gay, un'unione civile gay? No, gay. Io penso, io sono, non ho nulla contro il riconoscimento dei diritti civili, ma non è compito del sindaco fare queste cose. Per cui io trovo che sia giusto il riconoscimento dei diritti civili, ma solamente non solo un sindaco che c'è. Allora, però effettivamente Marchini dice il comune non c'entra niente, i sindaci non c'entrano niente, e su questo devo dire che ha ragione. Invece sì. Di fare baracconate simboliche che poi non producono alcun risultato, Marchini dice io non me ne frega niente di fare la registrazione. Vabbè, lo fa delle un po' coppie perché gay. C'ha il voto cattolico, il quale vuole essere, strizzare può l'occhio essere, eccetera può poi. Ma secondo te i cattolici ancora seguono queste minchiate? Cioè ancora i cattolici dicono ma no? Forse una parte dell'elettorato ma cattolico va. Sicuramente sì, visto ma che siamo a Roma, gay, al Vaticano, è pieno di proci pure tra i cattolici, quello d'accordo dai, però. Comunque, Briatore, ragazzi, passiamo ad altro. Briatore. L'Italia è come un albergo col bagno che puzza. Se Renzi cambi le regole e poi la gente torna in Italia. Come ad esempio, tu vai in un albergo e vedi che c'è brutto odore nel bagno, le docce non, l'acqua calda non è calda e il servizio non è perfetto. Uno dice vieni in questo albergo qui, allora tu metti torna, in questo albergo, tu metti a posto il bagno, metti a posto le docce, metti a posto il servizio, poi nell'albergo torniamo. Paese, questo è forte, è paese di disoccupati perché piagnucoloni, cioè la disoccupazione c'è perché in realtà non esiste secondo lui, ci piangiamo troppo addosso. Forza Briatore! Siamo il paese europeo con il più alto tasso di disoccupazione ma sì, giovanile. Ma perché la gente non lo cerca. Ma la gente non lo cerca. Noi abbiamo in Italia, tu hai gente che poi comincia a lavorare, poi il giorno dopo non arriva, il giorno dopo c'è la festa della mamma, l'altra settimana la mia fidanzata è stata male. Cioè, siamo anche un po' un paese di piagnucoloni. Beh, amici miei, ha ragione Briatore alla fine, dai, ha ragione Briatore. Beh, la metafora del bagno però è un po'... No, ma lascia perdere forza. Il bagno, lascia perdere il bagno. Questa no, cosa l'Italia qui, col bagno della... rotto. Vabbè, ma quello è un'immagine dell'Italia che c'ha il bagno che puzza, un bagno rotto, un albergo, ma lascia perdere, quelle sono metafore che lasciano il tempo che trovano. Ma questa roba qui, cioè un paese di disoccupati, il lavoro c'è, la gente non lo cerca, poi se ne va, poi arriva in ritardo, poi c'è la mamma e poi voglio lavorare a due passi da casa e poi voglio fare per forza questo lavoro e non altro. Alla fine, sai che beh, non è proprio così, però. C'ha ragione Briatore. Perché è pieno di ragazzi che infatti prendono e vanno all'estero, è altro che stanno a casa con mamma a due chilometri da lui casa. Lui diceva non tutti naturalmente, però ha ragione però Briatore. È pieno di persone che se ne vanno all'estero perché in Italia non trova lavoro. Senti questa roba qua, prendono mazzette i politici, in realtà prendono mazzette da pochi soldi perché sono dei pezzenti, senti. Quando vediamo le mazzette, no? Parliamo di 20.000 euro, 15.000 euro, a me mi sembra delle robe... Perché si vendono per così poco? Non so, perché sono scarsi. Oh, ieri sera abbiamo assistito a un nuovo show della signorina Paola Maugeri a proposito di animalisti, a proposito di vegani. Sentiamo un po' che quello che è uscito fuori, sentiamo un po'. Gli allevamenti intensivi che le piacciono non sono più sostenibili, è impossibile, soprattutto nel 2016. Soprattutto nel 43 avanti Cristo, un certo uomo di pensiero, Publio Ovidio Nasone, diceva: la violenza contro gli animali è tirocinio della violenza contro gli uomini, e vedendo il mondo come sta andando mi sembra che lì stia, è questo. Che cos'è che sostiene questa qua? Che la violenza contro gli animali è il tirocinio di quella contro gli uomini. Non ho capito niente. Ma nulla. Ma prima parlava di allevamenti intensivi, vabbè, d'accordo, la vecchia polemica sugli allevamenti intensivi, giusto, non giusto, eccetera, eccetera. E vabbè, quello se ne può discutere a lungo per tre ore. Qui ne abbiamo fatto una volta con Giuni Innocenzi, due coglioni, così mi sono fatto. E poi la questione della la violenza contro gli animali è praticamente preparatoria, un tirocino, una specie di allenamento di quella contro gli uomini. Ma che cazzata è? Ma io dico, ma uno può dire queste minchiate? Io non lo capisco. Siamo questo diventati grandi con le proteine animali. Sui barconi di gente che lascia la propria terra senza più speranza e futuro. Questi galli, questi polli sono anche esseri umani. Scusate, tutto questo è drammatico, io vorrei, non c'entra notte, non Vittorio, notte. Vittorio, io vorrei mettere allora... I polli sono esseri umani. No, ragazzi, io non ce la faccio. I polli sono esseri umani. I polli. I polli! Altro che il traffico. Qua si serve sapere del traffico di stupefacenti, che non si trova più l'erba buena. L'erba buena. La zanzara. Allora, caro Davide, risulta a proposito di Marchini e le dichiarazioni di oggi, non celebrerò le unioni gay, sì, al comune, che proprio qui alla Zanzara, infatti mi ricordavo qualcosa, il 10 aprile del 2014, forse 2013 però, prima delle elezioni, quando ci sono state le elezioni a Roma, vabbè, non mi ricordo più. Comunque, 10 aprile 2014, Marchini disse: farei anche un registro per le coppie gay perché ci vuole un riconoscimento civile per le coppie omosessuali. Ripeto. Farei un registro per le coppie gay. Oggi dice che non serve a nulla. Che te devo dire? Beh, forse sì, è chiaro, amico mio, è evidente perché. Perché si allea con Berlusconi e adesso dice che non servono a niente. Ma no, ma Berlusconi in realtà è a favore delle unioni gay, E allora perché? Per il voto cattolico? No, Berlusconi in realtà è più avanti vabbè, di tutti nel centrodestra. Tu hai visto a quanto hanno venduto quella statua di Hitler in ginocchio? Sì, no, quella di Cattelan. Quella di Cattelan. Sì, vabbè, 17... ma è una statua di Hitler comunque. Beh, cioè, un'opera d'arte quella lì. Un'opera d'arte che raffigura Hitler, 17 milioni di dollari. Di dollari, certo, un'opera d'arte però quella. Vabbè, lì. Però è Hitler, cioè, e poi Hitler tira ancora, tira da morire lì. Io non l'avrei comprata, però capisco che è Cattelan e quindi... Cioè tu che cosa faresti al collezionista che ha preso Hitler? È un coglione, assolutamente un pazzo, nulla, no. Perché a me piace molto Cattelan, quindi non... mi piace però, l'artista. Non sì, so, però non la ti comprerei, dico... in casa non me la metterei, la prenderei a calci altrimenti, quindi non... Sarebbe assurdo per me spendere, a parte che non potrei farlo. Cioè la distruggeresti, insomma. Ma non me la andrebbe metterei distrutta, in casa, ecco, perché ma andrebbe distrutta da sputargli, quella... da prenderla. No, distruttola, però mi piace Cattelan, quindi non posso, sono in conflitto di interessi. Ti piace Cattelan? Allora, io ho una piccola statuetta di Hitler qui, ecco, che quello, ad esempio, del periodo 33-39, cioè anche una statuetta, ecco, buttala giù dalla giù, finestra. Assolutamente, una piccola statuetta di Hitler che credo valga intorno, non lo so, ma partiamo da 200 euro. Chi la vuole? Vi assicuro, perché un amico, poi vi dirò chi è, un amico me l'ha confermato, è una statuetta che risale al periodo prebellico, 33-39, Ed è una volto di Hitler in legno con delle parti anche in metallo. Il gabinetto. C'è una... Ma che gabinetto? Quale gabinetto? È una cosa storica. È un po' rovinata in faccia, ovviamente scheggiata, eccetera, perché è periodo 33-39. Io direi di partire. Il numero di telefono lo conoscete. Ma a chi vanno i soldi? Da una base. A me, a chi vanno? Da una base. Ma è l'asta di un oggetto privato? Assolutamente sì. Un'asta di una. Di un oggetto privato? Di un oggetto privato, assolutamente. Ma che roba è? È un'asta, l'asta di cioè una... Cioè usi il servizio pubblico per fare un'asta? No, è servizio pubblico. Uso la trasmissione che conduco per vendere, per fare un'asta. Voglio capire a quanto può arrivare quest'asta. Un'asta di una statuetta hitleriana. Partiamo da 200 euro. E Hitler con un naso scheggiato. Mi voglio fare un regalo. Dunque, vendo questa statuetta di Hitler. Ho visto stamattina la Cattelan. Ho inquadrato un attimo un angolo di casa quello mia. Quello è Cattelan, però. Ma chi se ne frega che è Cattelan? Ho visto è bella differenza. Infatti, mica bisogna arrivare a 17 milioni. E ho detto, mi voglio fare un regalo. Vendo questa piccola statuetta di Hitler. Volto di Hitler, molto piccola. Diciamo, saranno 20 centimetri, 30 centimetri in legno. Partiamo da 200 la può euro. Prendere, la può anche cagarsi sopra. Ma che cagarci sopra? È una cosa storica. Periodo prebellico. Giuseppe Reggio Emilia, vai. Giuseppe. Luciani, buonasera. Buonasera. Dimmi. Buonasera. Ah beh, io volevo, ti ho mandato un'email e dei contratti, non so se l'hai ricevuto, per guardare che mi è successo una cosa molto strana. No, però scusami Giuseppe, tu sei in viva voce o qualcosa di simile adesso? No, sono in macchina. Lo so, togli il viva voce o l'auricolare, evidentemente, perché non... Sì, aspetta un momento. Se no non sentiamo niente. Dai. Allora, non so se l'hai ricevuto... Non mi ricordo bene, dimmi però. Dovresti guardare perché è una cosa lunga. Vabbè, allora, amico mio, dimmi, riassumimi la tua vicenda, che cosa c'è? Siccome io ho fatto la villa di mio figlio, no? Allora, tramite un architetto... No, però, Giuseppe, aspetta un attimo, non si sente niente, la storia è troppo complessa. Andiamo a Davide Torino, dai. Davide, sì, dimmi. Pronto. Sì, pronto, mi dimmi, senti? Dimmi, sì. Sì, buona serata a tutti e due. Io volevo intervenire sul pezzo di spezzone di intervista che avete mandato ieri su quel sedicente capo scout che ha fatto uccidere dei polli dai suoi ragazzi. Mi dicono sia una pratica abbastanza diffusa. Ma schifo, no, ti assicuro. Beh, oddio, non so questo signore qua da dove arriva, a quale associazione si è iscritto, ma se è a Gesci o Vecchia Asci, ovvero Associazione Scout Cattolici Italiani o Associazione Guide Scout Cattolici Italiani, sì, è sicuro che non è una pratica assolutamente in uso. Anzi, considero da ex scout, visto che ho fatto anch'io le varie parti facendo rover in servizio e avendo poi come capo scout i Lupetti, considero ignobile un atteggiamento di questo tipo fatto male, con dei bambini 12-14 anni, quindi riparto, gente che dovrebbero essere educatori, perché questa era la nostra funzione, no? Quando eravamo chiamati a queste attività. Evidentemente, se non è successo nulla a queste persone, se queste persone hanno continuato a fare questa cosa qui, cioè far uccidere, riassumiamo un po' per gli ascoltatori, ci ha chiamato l'altro giorno un ex o attuale ancora capo scout, il quale dice di avere istruito, anzi di avere portato dei bambini ad uccidere con dei bastoni dei polli, una cosa inaudita, per insegnare a questi bambini come muore un animale, cioè quello che loro mangiano, da dove viene. Questo ascolta, è quello che ha raccontato. Se avesse fatto comunque non avrei assolutamente condiviso con dei rover in servizio, quindi dei 16 anni in su, 17-18, come pratica di sopravvivenza, no, visto che lo scoutismo lui l'ha fatto all'aria aperta, sì, però con dei bambini. Lui lo ha fatto, dice, per dire ai bambini, ecco, un animale muore in questo modo, imparate anche voi come si uccide un pollo. No, è una cosa assurda e ritengo anche ignobile. Al di là del va bene, grazie Davide, scout... grazie. No, aspetta, no, ma ho capito, mica possiamo fare la lezione sugli scout. Paolo, provincia di Isernia, vai Paolo. Paolo? Wind. Paolo, Pino Arezzo, vai. Pronto, ciao. Dimmi. Niente, io sono cacciatore. Sì. Io dico che gli animali, gli si spara, si macellano e si mangiano. Sì, ma mi pare assolutamente normale. Ma che c'entra di bambini? Però, dico questo, farlo con quel rito da scout, da ex scout, come l'ha raccontata lui, non è che sia proprio una gran ficata. Però, ragazzi, la natura è questa, se vai in Africa e vedi come ammazzano un leone per mangiare, è quello, Beh, i leoni per mangiare adesso addirittura, non esageriamo. Sì, ma è uguale, è la natura. Cioè, per te è normale che un bambino venga addestrato Allora, guardi, a come si ammazza, no, come no, si ammazza, no, un pollo. La parola sbagliata, non addestrato. Però io quando ero piccolo stavo in un paesino, sì, andavo a vedere, la chiamavano nelle Marche la pista del maiale. Sì. Cioè andavano a ammazzare il maiale, la macellazione, è la natura, è la vita. Sì, no, ma io sono d'accordo, ma sono d'accordo con te. È impressionante però magari per un bambino, no? Che discorsi sono? Mi pare ovvio. È scioccante, ma è vero, è così. Poi piano, ma piano, perché uno deve far fare delle cose scioccanti ai bambini? Un conto è se lei ci va per i fatti suoi, un conto è se come attività la organizzano, no? Ma era una festa. Allora, intanto la statuetta è arrivata a 500 euro, poi devono essere vere, eh? Grande, grande. 500, 500, datemi i soldi, datemi il quattrino, datemi la grana. Ma non potete iniziare alle 18, che c'è già gran voglia di zanzara. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container, con Massimo De Donato. Il segnale orario vi è offerto da... Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. La Zanzara. Ho bisogno di una foto dell'oggetto, del busto di Hitler, per fare una seria offerta. Reduce divisione Siegfried. Cruciani, vai a fare serio. La statuetta di Hitler, mettetela su pal culo, dai. Offro 250 euro per la statuetta di Hitler. Luca, tassista di Roma. Cioè io te ne do anche 600, però devi almeno quantomeno mettere una foto sul sito, fare qualcosa, o se sei in web, mamma, mettila. Crucia, ma spiegami un po', ma tu che cazzo ce l'hai a fare una statuetta di Hitler? Cioè, Pamminchia che dice di cagare sulla testa della statua di Hitler è pari ai nazisti che bruciano i libri, proprio un pirlotto. Luciani, hai venduto prima il culo, adesso la statuetta di Hitler. Peccato che non puoi vendere il cervello perché non ce l'hai. Allora ragazzi, per ricapitolare, però com'era che ha detto quello, pammerda invece di Parenzo, pammerda invece di Parenzo, sì, la gente si inventa qualsiasi cosa. Sveglia ragazzo, stasera ti vedo un po' moscio. Comunque la statuetta di Hitler, questa per ricapitolare la situazione. Allora, Cattelan, come sapete, però è un artista di fama mondiale. Sì, ho capito, non c'è bisogno che rimarchi una differenza che è evidente. Quello ha venduto, quello fa tutto. Ma che c'entra? È un'altra roba. Allora, la statua di Hitler è stata venduta a 17 milioni di dollari, Questa mattina a casa mia mi sono ricordato che tra le tante cose che ho e che ho sparse per varie case c'è una piccola statua del Führer che mi è stata regalata da un collezionista. Questo collezionista mi ha ricordato oggi che è una statua del periodo prebellico, 33-39, dunque non è una statua del periodo bellico, e che insomma si può partire da una base di 200 euro. Adesso siamo arrivati... La voglio mettere all'asta perché mi voglio fare un regalo. La metto all'asta, poi fate quello che volete. Ovviamente dovete lasciare anche l'IBAN, poi, eccetera. Faremo i primi tre perché qualcuno magari per scherzare fa aumentare il prezzo fino all'infinito. Per adesso... Devi mettere anche un tempo però, entro le 20. Beh, entro stasera, le 21, certo, entro le 21. Allora, un signore ha offerto 1000 euro. Ma perché un imbecille? Non perché ho capito. Un imbecille. Ma perché? Non ho capito. Parere, un imbecille. Ma non ho capito. Uno non può comprare un cimelio del nazismo. Un tuo amico sì, deputato del PD vorrebbe proibire tutto questo. No, vorrebbe rendere fuori legge tutto questo. No, io questo non allora, penso 1000 di euro, però... 1000 euro, altri hanno offerto 600, un altro ancora 550, siamo già oltre i 1000, non lo so, perché è lo stesso dei 250. restiamo su quella cifra là, eh. Dai all'Ampi i soldi che guadagni, così a chi la do, scusa? All'Ampi, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Io alla Associazione Nazionale Partigiani non do un euro all'Ampi, non do un euro, non do un euro all'Ampi. No, vorrei portare un po' di miei amici al Moulin Rouge in Svizzera, magari, no? Cioè, chi vuole si può aggregare un paio di amici al Moulin Rouge a Lugano, bordello di Lugano. Vabbè, si può andare a prostitute con i soldi di Hitler, questo può essere anche encomiabile. Beh, assolutamente. Mino da Roma, vai, Mino, Mino. Buonasera. Dimmi, dimmi, Mino, dimmi. No, volevo riferirmi a un intervento che hai fatto prima riguardo alla questione delle unioni gay, eccetera, eccetera. A un certo punto hai detto: a chi ne frega niente di questa cosa, figurate quanto gliene frega ai cattolici, che pure lì c'è, è pieno de froci. Sì, cioè, hai usato proprio questa terminologia. Beh, sì, io uso spesso la parola froci anche in piena libertà, ma mica per denigrarli, mica per denigrarli. C'è modo e modo di utilizzare la parola froci. Io la utilizzo tranquillamente, sono stato sdoganato. No, non c'è un modo. La parola frocio è denigratoria in sé. Non è vero. È denigratoria in sé. Guarda che moltissimi gay tra di loro si chiamano frocio, la frocia, eccetera. Sì, eccetera. Ma non importa. Tu parli a una radio, amico mio. Cioè, caro Mino, sei rimasto un po' indietro. Dovresti attenerti a un'etica. A un'etica di che cosa? Chi la decide l'etica? Chi la decide l'etica? L'etica, chi la decide? Ah, l'etica. E da chi è impersonata l'etica? Da chi? Da te? Da qualche comitato? No, da chi? Ma non fare sofismi che non hanno senso. No, sofismi. Da chi è l'etica di che cosa? Io utilizzo la parola frocio, certamente, per chi mi conosce, non in senso denigratorio. Ma lui dice, cioè, se lo dicesse uno di Casa Pound ci sarebbe da preoccuparsi. Ma non lo so, se uno dice frocio. Beh, sicuramente. Non lo so, non mi interessa chi lo dice, bisogna vedere come lo dici. Il contesto, come si se dice, dici frocio di merda, se dici frocio no, ma anche se uno di Casa Pound dice, usa la parola frocio, ma perché se uno di estrema destra, ti spiego, dice, perché io perché lì è denigratorio, se invece è un po' come le barzellette, dipende dalle situazioni, no? Ma non capisco che significa, Mino, qual è il problema, non ho capito bene. Come, qual è il problema? È quello che ti sto dicendo, tu parli a una radio pubblica, ma non vi rendete conto di che responsabilità avete ancora con questa storia della responsabilità? Io delle responsabilità, io utilizzo la parola frocio da anni, e non sarai certo tu, Mino da Roma, intervenuto alle 19:20 del giorno di grazia 10 maggio 2016, a farmi cambiare idea e linguaggio. Utilizzo questa parola perché dopo un po' mi sono rotto le palle di utilizzare gay, omosessuale, eccetera eccetera. Utilizzo anche frocio tranquillamente. Sono intervenute tantissime personalità qui del mondo omosessuale, da Tommaso Cerno, che ne so, a Vladimir Luxuria, eccetera, eccetera, che mi hanno sdoganato da questo punto di vista. Sono stato sdoganato dalle massime autorità civili, politiche e militari del mondo gay. Più di questo, che cosa vuoi che ti dica? Ma che vuol dire? Ma cosa stai dicendo? Ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Sei stato sdoganato, eccetera, eccetera. Ti ripeto. Prendimi per bacchettone. No, non ti prendo per bacchettone. Tu sei omosessuale? Ti sto soltanto dicendo che tu ti esprimi. Sei omosessuale? Sei omosessuale? No, pensavo che ti avesse dato fastidio quella parola, in quel senso. No, è il linguaggio, caro Cruciani. È il linguaggio, benissimo. Dovete stare molto attenti da questo punto di vista. Noi non siamo attenti, non siamo attenti da questo punto di vista. Non siamo attenti. E questo paese sta andando nella merda proprio per noi, per colpa nostra. No, per te. Tu conti come il due de coppe, che vuol dire? Beh, adesso due coppe, sicuramente conto più di te, su questo non c'è dubbio. Ma è proprio il non capire che ormai si sta travalicando qualsiasi forma di dialogo, di parole. Di parola, di dialogo, sì. Sì, sì. Sì, sì. Poi se te ne posso dire un'altra? Dimmi, Mino, dimmi, sono qui, tutto allora, hai fatto quell'altro intervento dicendo che la Boschi è una povera disgraziata perché dice che Non ho detto, una povera disgraziata lo dici tu. Non ho affatto detto che è una povera disgraziata. No, vabbè, figura. Ma scusa, allora, ma tu devi stare attento, io devo stare attento alle parole, quelle che dici tu, e invece tu puoi dirmi che... Guarda, che ma incredibile. Ti sto esprimendo un concetto. Anch'io, ma anche per me è froce un concetto, però. Aspetta, ti sto dicendo. Anche per me è froce un concetto. No, decidi tu. Allora, hai affermato praticamente, sì. La Boschi dice questa cosa e commette, sì. Commette un atto di ingiuria, perché dice se tu voti no, voti come Casa Pound, giusto? Sì. È questo che hai detto? Sì, ho detto che semplicemente una stronzata, punto. Ha detto una stronzata, esatto. E ci allora? Siamo. Allora. E tu fai questa analisi politica. Vabbè, Mino, guarda che mi hai scocciato, dunque o chiudi presto oppure ma che modo è di parlare? Dai, ti dimmi, sto dicendo allora una cosa, ma ho capito, ma tre ore ci metti, vai. È tre ore che hai detto se voti, questa non poteva dire che se voti no voti come Casa Pound, ha detto semplicemente io rispondo a chi mi dice che chi vota sì vota come Verdini, è la stessa cosa, uno a uno. Infatti una stronzata la prima e una stronzata la seconda. Ma non l'hai detto! Ma adesso lo dico. Qual è il problema? Adesso lo stai dicendo. Adesso lo dico. Hai fatto l'analisi politica dicendo. Ciao, che Mino, che buona serata. Stai tranquillo, Stai tranquillo, stai tranquillo. Calmati. Vai a fare un riposino. Maurizio da Varese, vai. Ciao Cruciani. Dimmi, Maurizio. Maurizio. Dimmi. Io ho chiamato un'ora fa perché ho fatto un'offerta della statuetta. Quanto? No, tu eri partito da 200 e ho offerto 250. Lo so, amico mio, per adesso comunque prendiamo in considerazione, perché magari questi sono dei deficienti. Io arrivo fino a 600 perché devo fare un regalo a un'amica. Che vuoi regalare? Ti regala un'amica il busto di Hitler? Sì. Ma è strano, anche vuole lei è regalare, forte. Vuole regalare. Tu sei fascista, di destra, italiano, ti piace Hitler? Che ne so? Abbastanza. Ti piace Hitler? No, mi piacciono alcune cose e credo che la verità e la storia dicono altre cose. Ma cosa cose ti piace di Hitler? Sì. Cosa ti piace di Hitler? Per esempio, dimmi una cosa che ti piace, che ne so. Cioè... Che ha detto tante verità assolute, tipo? Che oggi sono tipo che per gestire il popolo, sì? Ci vuole comunque la forza e ci vuole comunque qualcuno che sia autoritario. Autoritario, cioè a te piacciono i dittatori? No. Io credo che in questo paese ci vuole una dittatura democratica per almeno 10 anni. No, dittatura democratica è una contraddizione in termini, mi sembra. Cioè ci vuole un uomo forte, ci vuole. Sì, se no questo paese non usciamo più. D'accordo, un'altra cosa positiva che ha fatto Hitler, qual è secondo te? Dato che ti piace, hai detto che apprezzi alcune cose, vuoi comprare questa statuetta a 600 euro, che è una statuetta originale, te lo posso confermare, attraverso un signore che abita a Prato e che è un collezionista, non voglio fare i nomi perché magari non lo voglio mettere in mezzo, dimmi. Un'altra cosa positiva che ha fatto il signor Hitler. Hitler? Sì, una cosa positiva. Sono tante, certo, ce ne ricordiamo tantissime di cose positive. Dimmene un'altra. No, ha fatto tante brutte cose, non lo metti in mezzo. Ma no, dimmi una cosa positiva. Ha condotto un popolo a una guerra. Sì, a una guerra, ma comunque ha condotto un popolo per ricostruire comunque una roba unitaria. Una roba unitaria. Ma questo è pazzo. È confuso, però, un po' confuso. No. Comunque, ma Maurizio, fino a 600, no? Fino a 600 arriviamo? Sì. Butti i suoi fino soldi. Maurizio da Varese, fermi. Prendiamo in considerazione Maurizio da Varese 600. Potremmo dire solamente chi chiama, però, non chi manda messaggio, oppure chi manda WhatsApp. Maurizio da Varese 600, il primo. Lo voglio mettere come primo della lista. Maurizio da Varese 600. Gli altri devono chiamare. In primis quelli che chiamano, dopo i WhatsApp. Fermi tutti. Siete due merde. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Perché porti dei limiti? Saxo Bank. Fai trading ovunque, da qualsiasi dispositivo. La Zanzara. Ormai 16 anni fa, campo di specializzazione nazionale in trapper degli scout a Spettine ci hanno insegnato come si scuoia un coniglio prendendolo da vivo. Viva la Ageshi! Cruciani, ma quanto sei ignorante, quanto siete ignoranti. Lo sanno tutti che la prima caratteristica dei serial killer è quella di fare violenza sugli animali. Idioti! Lo sanno tutti tranne voi, ebeti, deficienti. The last 3 days, the rain was unstopped. Zanzarosi, contattateci all'800 24 00 24 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Allora, qualcuno mi dice di dare il ricavato di questa vendita, di questa asta per la faccia di Hitler, la statuetta di Hitler che possiedo a casa, periodo 33-39, siamo arrivati a 600 euro, primo ascoltatore che ha chiamato, caspita. Anche se su WhatsApp, caspita, hai sentito prima, caspita, ma che sei rincoglionito, l'hai sentito prima in diretta? No, dico, là? Tanto però 600. Ma lei c'era confermato. Prima in diretta quel tizio, non sei rincoglionito. Ho e dico, caspita però, compra un regalo a qualcuno della tua famiglia, guarda. Fai un regalo. L'incredibile frase di Amadeus. Io difendo sempre quando succedono queste cose. Può succedere, ragazzi, su, può succedere. Amadeus, ti sono vicino, ti sei scusato benissimo, il pubblico, la Rai, eccetera. Però in fin dei conti che cosa è successo? Dai, che ha detto la minchia nera, la minchia nera. E vabbè, dai. Grazie, buon appetito. Ciao. Vorrei la minchia nera. Com'è che fa? Vabbè, la no. Minchia nera, ragazzi. Ho capito, dai, su. Giampiero da Palermo, vai. Cruciani, buonasera. Sì. La tua trasmissione, diciamo, è una merda. Sì, è bene. Una bella merda. Ottimo, una bella merda. Una bella merda, nel senso che è una merda che mi piace. Sì, amico mio, vuoi parlare meglio per favore, non all'auricolare, non al... Non parlo all'auricolare. Vabbè, ok. Io ho amici che chiamo froci. Sì. E non si offendono. Bene. Beh, se sono amici, per favore. Sì, sì, ma ne ho tanti. Sì. Vabbè, se sono amici, è ovvio. È chiaro. Non è ogni cosa, va cavata nel suo contesto. Il linguaggio è una cosa importante. Ora perché ho chiamato? Perché qui a Palermo, non so se immagino di sì, avete sentito che... Il giornalista di Telegato, Pino Maniaci, è sotto accusa. Sì, sì, lo sappiamo, lo sappiamo. Eccetera, eccetera. Allora? Ora, siccome io ho sentito anche un sacco di gente, quello che proprio non gli si perdona è una questione di linguaggio. Sì. Perché poi un'estorsione di 366 no, euro... No, Giampiero, io non sento un cazzo, scusami. Mario dall'Aquila, ragazzi, non sento. Cioè, sento male, auricolare, viva voce. Voglio tagliare tutte le telefonate che non si sentono. Mario dall'Aquila, dai. Buonasera. Ecco, bello, forte, allora... chiaro. Limpido, vai Mario, dimmi. Senta, poc'anzi lei ha affermato le testuali parole: io sì. All'Associazione Nazionale Partigiani non do una lira. E beh, perché è obbligatorio. È obbligatorio, no, adesso da risolvere. Però vorrei allora. Ricordarle che tutte le minchiate che spara le può sì. Sparare grazie a loro che ci hanno portato in democrazia, se no altrimenti anche adesso questo. Lei starebbe. Ma non c'entra niente questo. Dall'Istituto Luce, ma, se mi fa finire. Ma questo non c'entra nulla. Di turno, il gerarca di turno gli avrebbe questa dato questa è una boiata la... perché non c'entra niente. No, assolutamente, proprio non così. C'entra nulla, io non sono obbligato per fortuna a dare un euro a nessuno. Beh, no, e non vorrei che nemmeno lo Stato desse soldi ormai ad associazioni vetuste che non hanno più alcun ruolo. Beh, come hanno ruolo? Come? Proprio perché siamo in un paese libero. E vabbè, siamo in un paese libero, appunto, c'è anche la libertà di non dare un euro alle associazioni, mi sembra, no? Esattamente. E allora, se lei, può, se lei vuole, poi le dia 1.000-1.500 euro all'anno, al mese. Poi un'altra cosa. Voi siete una trasmissione a scopo filantropico, terapeutico, e ti spiego. Sì. Per quei bambini che alla terza elementare ancora non sanno né leggere né scrivere, la madre cosa fa? Sì. Alle 18.30 si sintonizza con la zanzara e dice: ascolta, figliolo. Questo è quello che non devi fare. Bene. Questi due che parlano sì. Qui alla radio, questi sono giornalisti. Sì. Poi quindi ce la puoi fare anche tu. Il signor Bonanno sì. E il signor Salvini. Questi invece sono europarlamentari. Salvini, sì. Capo di un partito. Sì. Poi in dulcis in fundo Razzi. Arriva Razzi, questo è senatore. Allora il bambino, giustamente, cazzo, io quando sarò grande diventerò un astrofisico nucleare. È la battuta di Roberto Benigni, però, questa qui, la rubata a Benigni nel. Nello può spettacolo essere, sì. No, l'ha rubata Benigni nello spettacolo, certo. Intelligente, solo che Benigni lo faceva riferimento a Emilio Fede quando Fede era direttore del TG4, okay. La stessa battuta, okay, uguale, okay. Ma cambiano io i soggetti. Io invece faccio riferimento alla vostra trasmissione, sì, ma è copiata, è una battuta divertente ma copiata da Benigni. Bene, okay. Bene, si è ha detto la sua no, benissimo, la sua opinione, ha detto quello che pensa, è contento? Ah, questo è così. Come come il trailer che mandate, perché ascolto quel tizio per sì. vedere quello che dice. Così voi siete fantastici in questo, nessuno lo mette in dubbio. Bene, però lei dice siamo dei, dici giornalisti, è troppo, e soprattutto, i politici che intervengono sono quello che sono. E pazienza. Esattamente. Mario, c'è chi guadagna facendo show radiofonici come noi, e lei che fa di mestiere invece? Io sono cardiochirurgo. È cardiochirurgo. Cioè, invece, chi salva la vita delle persone, chi mette a posto i cuori, chi fa mestieri magari più nobili apparentemente del nostro. Infatti, senza nessuna rancore, che io ho detto una niente. Senza nessun rancore. Il cardiochirurgo è nobile. Il cardiochirurgo, al mio rispetto, assolutamente. Che posso, è tranquillo. Ma tutti i lavori sono nobili. E avessi detto un camionista, cosa avresti detto? Sono più nobili di altri. No, Parenzo, dico. No, alcuni sono più nobili, sono più utili. Sì, ma c'è una vena di presa per il culo in quello che ha detto Mario, no? Cioè, nel senso. Però cardiochirurgo. Ma va benissimo, per carità, noi ci lasciamo anche prendere per il culo. Ma non c'è nessun problema. Fa un mestiere sicuramente più delicato del nostro. Questo non è prendere per il culo, sai, come fa di voi con certi personaggi o certe persone al telefono, io sto scrivendo la mia idea. Sì, assolutamente. Che è una presa per il culo. No, ma la tua idea di che cosa è un giornalista è talmente antiquata e vecchia che si capisce che fa il cardiochirurgo. Cioè, quanti anni hai? No, dai, i giornalisti miei sono Biaggi, Santoro. Questi, e chi se ne fotte? La mia risposta è chi se ne fotte, capito? Di quelli che sono e i tuoi giornalisti. Ci sono. Assolutamente. C'è modo e modo di fare il giornalista. Alcuni lo fanno in un certo modo, alcuni lo fanno. Certo, c'è anche Vespa, purtroppo, cioè c'è modo e modo di fare il giornalista, ci sono trasmissioni e trasmissioni, tira a campare con le possibilità e i mezzi, certo, che, ha, che vogliamo fare, io tiro a campare con i mezzi limitati che mi sono stati riconosciuti, lo sa lei, il fisco e l'agenzia delle entrate, quello è un altro discorso, il fisco e l'agenzia delle entrate, probabilmente lei che fa il conto di lui, io guadagno il doppio di quanto guadagna lei probabilmente, però sa, questi sono io è tutto registrato, c'è la busta paga e tutto, però questi sono i casi della vita, come dire, no? Andrea da Pistoia, ciao Mario, ciao Andrea Pistoia. Ciao ragazzi, non capiscano la libertà di questa trasmissione, non c'è niente da fare, più che sono vecchi e più che sono rincoglioniti, che vuoi benissimo fare? Fate spiegare, no, a tutti quelle, quello si è nei denti. Ma i giovani non necessariamente sono giovani anche di cervello, magari sono vecchi in testa. Vabbè. Io sono nato, voglio tornare a Degani, io sono nato in una famiglia di 7 persone che è campata ammazzando conigli, polli, galline, piccioni, anatre, capre, pecore. Sì. Cioè, ma che cazzo vogliono sti vegani? Hanno rotto i coglioni. Cioè, ma in un paese dove viene dalla pasto, un paese contadino come è l'Italia, ma che pretendono? Ma perché siamo su quattro ricchi ciccioni americani hanno messo sta moda? Cioè, ma voglio dire, sono un cacciatore, ti ringrazio di difendere noi cacciatori perché ci augurano di essere ammazzati, tanto di cappello, Cruciani. Cioè, e questi insomma, perché non vanno a fare i vegani in India, in Somalia, in Eritrea? Ma perché non vanno là a fare vegani questi quattro imbecilli? Ma uno può fare il vegano anche in Italia. Ma è follia. No, ma non è follia, ognuno può fare quello che vuole, basta che non rompe coglione agli altri, basta che non mi dipingano come un assassino, come uno sterminatore di animali o come uno che inquina il pianeta, contribuisce all'inquinamento del pianeta, perché altrimenti mi incazzo. Chiaro? E basta che non vogliono rompere il cazzo gente come lei che fa il cacciatore seguendo le regole, perché la caccia esiste, è esistita, esiste ed esisterà sempre, anche la caccia per motivi ludici, chiaro? Perché non come dice Paolo Maggeri che un pollo è uguale a un essere umano, pollo è una cosa e un essere umano è un altro, è un'altra cosa. Cora da Brescia, vai. Cora? Pronto? Che dimmi, bello, dimmi. Finalmente. Dimmi, ciao. Niente, io chiamavo, mi rifaccio riferimento alla telefonata di prima, sì. Volevo raccontare la mia esperienza di quando a 12 anni mi è capitato di ammazzare un coniglio. Hai ammazzato a 12 anni? Lei l'ha ammazzato, sì. O l'hanno ammazzato? Allora, io sono una cittadina, famiglia normale, media borghesia, siamo a 12 anni a casa. Che poi, secondo te, scusami Cora, tu hai ammazzato, mi hai detto, un coniglio a 12 anni, ma secondo te perché Amadeus ha detto che vorrebbe la minchia nera? Per la solita cosa della minchia lunga nera, per esempio. Ma hai detto una cazzata, dai. No, ma perché dice vorrei la minchia voleva nera? Voleva fare una battuta. No, ma secondo me per questo, per questa idea della minchia nera, per forza. Voleva fare la classica battuta che si fa. Ma qual era? Risentiamo un attimo, qual era vorrei la pelle nera? Scusate. Come, scusa Cora? Non lo vorreste tutti la minchia nera? No, beh io no, ma io no, non particolarmente. Che vuol dire? Basta la tua, quindi. Beh, no, basta la mia, nel senso che non so la che cosa. La signora entra molto nel merito, mi pare. Beh, mi pare positiva questa cosa. No, perché quello, no, mi avete tirato a fare un altro discorso, io perché avevo per aver ammazzato un coniglio. No, perché Cora, tu hai la fissazione della minchia nera? No, no, assolutamente, però sono una di quelle che dicono che le dimensioni contano. Beh, questo è molto importante come discorso, eh? Molto molto importante. Signora del 1946. No, ma è fondamentale, perché dice una cosa importante, Cora, al di là della questione dei conigli, di cui possiamo anche parlare, però non è una grande novità, cioè tu ci stai dicendo che hai visto uccidere conigli, hai provato... No, l'ho ammazzato io. A che età? A 12 anni, a casa di amici di campagna, stavano ammazzando i conigli, prima li ho guardati farlo e dopo un po' ho pensato, ma scusa, io lo mangio... Ma come li ammazzano questi conigli? Fare. Come li ammazzano? A quel tempo gli stavano andando, cioè lì per lì gli davano una martellata in testa. E tu pure hai dato una martellata a un coniglio? Tenendo... Sì, sì. Ma a che età, scusami, a che età? A 12 anni andavo alle medie. Così, boom, a 12 anni una martellata in testa al coniglio? Sì, li ho guardati per un po' farlo, ci ho pensato un sacco, mi ha fatto anche impressione. Io adesso, il collegamento per esempio tra la martellata al coniglio e la minchia nera è interessante, perché secondo me qualche collegamento ci potrebbe anche essere, bah, cara adesso. Cora. L'ha fatto dito. Lei però, non io. Aspetta un attimo, ferma lì. Cora, in che senso le dimensioni contano? Cora? Allora, per noi ragazze il raggiungimento dell'orgasmo è una cosa difficile, quindi o si incontra qualcuno di molto capace, a quel punto le dimensioni passano in secondo piano, o se no contano le dimensioni, detto proprio. Vabbè, ma questo è normale, cioè nel senso qualche volta la capacità sostituisce la misura, diciamo, no? Sostituisce la dimensione. Esatto, capita spesso, sì. Capita spesso. Ed è più importante la circonferenza o la lunghezza? Credo sia il diametro. Il diametro, cioè Cora. Sì, lei è fidanzata in questo momento, signora? Sì, da 10 anni. Gli ho anche detto che chiamavo, chissà se mi sta ascoltando. Ecco, è un po' imbarazzato il suo fidanzato. No, perché è imbarazzato? No, penso. Mi conosce, 10 anni che stiamo insieme. Da 10 anni? È tutto a posto da quel punto di vista? Cioè lei si trova perfettamente o potrebbe avere di meglio dal punto di vista dimensionale? Mi sono fermata al posto giusto. Ah, ti sei fermata al posto giusto. Sei soddisfatta da questo punto di vista? No, perché sai, questo è un grande confessionale. Si possono dire anche delle cose che magari no, non si vogliono dire in pubblico. Questo è il punto, no? Comunque, tu non sei una... Sei una molto sincera. Dici, le dimensioni alla fine contano, cara Cora. Giusto, è inutile essere ipocriti. No, ma adesso si è inserito questo discorso ed è interessante perché tu non hai mentito di fronte alla realtà, cioè la realtà è quella di una ragazza da Brescia che non so quanti anni abbia, credo intorno ai 35-40 se non sbaglio, dalla voce. Che non si imbarazza neanche a parlare 30, di queste cose e che dice, ma no, ma non si deve imbarazzare perché ha detto che ha ammazzato i conigli con una martellata e dice anche alla fine... Già questo dovrebbe darti l'idea. Dice anche le dimensioni alla fine... Ma che cosa? Ma guardi Parenzo, veramente l'ho trovato di una cosa, mi è sembrata la cosa più naturale da fare in quel momento, voglio dire, io la mangio la carne, la devo trovare in una vaschetta di polistirolo servita da qualcuno. Beh, ma alcuni magari non hanno il fegato di fare. Io ad esempio non assisterei mai a una macellazione di un animale pur mangiando carne, ma questa è ipocrisia. Okay, però quello che sia coraggiosa, per carità, questione di non entrerei mai però... in un macello, ecco, quello sicuro mi farebbe impressione, sicuramente sì, sicuro, ma penso come me. Va bene Cora, comunque comunque alla fine la tua sincerità mi piace, cioè tu dici le dimensioni sono importanti, inutile essere ipocriti, non potresti mai stare con bisogna essere capaci. Non potresti mai stare con qualcuno. Vabbè, però se sei capace e sei sotto i 10 centimetri, amica mia, puoi essere pure capace quanto ti pare, però dove andiamo? Ma non è vero perché su. Non è vero, adesso non voglio parlare di queste cose nel dettaglio, però non è vero. No, devi parlare nel dettaglio. Anche lei ha delle barriere, anche lei. Piccoli. Sono troppo piccoli, ragazzi, a me è capitato d'altra parte lì, quello è un problema, vabbè, si potrà sostituire, ragazzi, in qualche altro modo. Il sessuologo, il mitico Bossi, il sessuologo che interviene ogni tanto da noi, dice una cosa molto semplice: sotto una certa dimensione tu puoi essere bravo quanto ti pare, ma alla fine non senti niente, dai. Ciao amica mia, ciao Cora, ciao. Vladimir, eccoci qui, Vladimir, che viva, salve. Che viva Luxuria, che viva Luxuria, come si sempre. Dice in spagnolo. Come hasta si dice? Hasta l'orgasmo sempre. Hasta l'orgasmo sempre. Beh, questo è molto positivo, è molto positivo. Sì, molto. Sei d'accordo con l'ascoltatrice di prima oppure hai qualche obiezione da fare al riguardo, cara Vladimir? Io preferisco la chitarra, la chitarrina, ma devi anche saperla suonare. Vabbè, d'accordo, ha risposto. Una metafora. No, vabbè, l'ideale è chiaro, no? L'ideale, cioè, quando ti è capitato qualcosa di veramente, veramente esagerato, ecco, questo voglio dire, è veramente esagerato, ti è capitato o no? Cioè, da dire, guarda, no, è troppo, questo è troppo. No, vabbè, che c'entra? Uno deve essere accogliente. Less is more. Devi essere accogliente, non puoi rifiutare. Non anche quando è esagerato non puoi rifiutare. No, il problema è opposto, quando magari è un po' piccolo e la domanda più imbarazzante che puoi fare sei sicuro che dentro, ecco, questa cosa. Ti è successo anche quello? Sei sicuro? Sei sicuro che ce l'hai? Sei sicuro? Perché quello ti dice, stai sentendo, senti qualcosa o no? Ma scusa, è dentro? Sì, sento Radio 24, sento Radio Crucia, non sento altro. Allora, va bene, senti Vladimir, oggi uno dei candidati a Roma che tu non voterai perché hai detto che voterai, come peraltro hai anticipato tempo fa, voterai per il signor Giacchetti, uno dei candidati al sindaco di Roma che si chiama Marchini, il mitologico Marchini, ha detto che lui non istituirà il famoso registro per le coppie gay. Io devo dirti la verità, non sono mai stato particolarmente appassionato dei registri per le coppie omosessuali. Cioè, no, ovviamente non è che dico che non bisogna farli, dico semplicemente che senza una legge, eccetera, sono atti sostanzialmente inutili. Ora, Marchini ha detto che non lo farà, però abbiamo pizzicato. Però non lo farà forse... anche se ci sarà la legge, questo è il punto forse. Ma no, non credo. Ma secondo me però la questione è questa. Una volta che si fa la legge, adesso giovedì si pone la fiducia alla Camera... Sarà obbligato? No, obbligato, non c'è manco bisogno. Ma non ci saranno manco più registro delle unioni civili, cioè i comuni dovranno applicare la legge. Sì, vabbè, certo, verrà depositato. Fa omissioni di atti d'ufficio, cioè... Certo. Disobbedisce a una legge, cioè un'impiegata comunale nel Kentucky in America l'anno scorso, Kim Davis, l'hanno arrestata perché non, non voleva. Dunque, se Marchini, vuole, se dovesse diventare sindaco di Roma, cosa difficile, però non da escludere alla in toto, e non vuole che vada in galera alla fine. Cioè, Io non so se è la galera, ma sicuramente è un processo, un'interdizione. Uno non può fare il sindaco e va contro la legge nazionale. Cioè, i comuni non è che possono fare delle leggi che vanno al di sopra di leggi nazionali, altrimenti ritorniamo al medioevo dei comuni. È un po' la mentalità medievale, devo dire, di Marchini, che posso dirti la verità proprio dimmi. A cuore. Dimmi. Secondo me sta recitando una parte, proprio te lo dico sinceramente. Ma no, ma tanto sta recitando una parte. Ma sta recitando una parte, però è strano, effettivamente. Altro che moderato, cioè, ma qui dove deve fare perché il moderato? Perché oggi il governo chiede... Ma ha ragione Luxuria, il punto è proprio questo qua, perché se oggi il governo chiede la fiducia sulle unioni civili e dovesse passare la legge... Lui probabilmente si riferisce a quello, cioè nonostante la legge, perché sennò non avrebbe senso questa cosa, no? Io non ci avevo pensato, è vero, mi ha fatto pensare a Luxuria. Ma sì, c'è stato anche altri sindaci già lo hanno annunciato. Cioè il punto è questo, la novità è questa roba qua. Ma non credo che dica fare. No, è questa la novità. C'è un altro sindaco di centrodestra, di Castel Fiorentino, sì, che ha annunciato che anche se fanno la legge, è vero, è vero. Come comune di applicare la legge, vedrai che questa sarà un'altra battaglia che come quella fare. come tu dici quelli sull'aborto, come dire, gli obiettori di coscienza. Gli obiettori di coscienza, vabbè, ma gli obiettori di coscienza sulle coppie gay sono ridicoli, dai, cioè sono ridicoli pure gli altri. Nei decreti attuativi vogliono mettere delle norme un po' più stringenti proprio sull'applicazione. Scusa, ma secondo te pure questi dell'aborto, non devono essere costretti, secondo te, a fare un medico non dovrebbe applicare, un ginecologo in un ospedale non dovrebbe essere costretto a far abortire una donna, secondo te? Sono d'accordo. Allora, se ti candidi di sindaco a Mosul, allora puoi pure pensare che puoi fare un po' il talebano, no? Il fondamentalista. Cioè, se tu dici a Marchini si candidi a Teheran. A Mosul, a Teheran, dove vuole lui. Ma se si candida una nazione dove finalmente faranno una legge sulle unioni civili, devi applicare la legge. Cioè, le tue convinzioni moralistiche, io direi quasi bigotte, non devono condizionare nel tuo operato di ginecologo, nel tuo operato di sindaco, altrimenti fai un'altra cosa. Fermi là, torniamo tra un attimo. Fermi tutti. Pubblicità. La Zanzara. Cruciani. Ieri mi sono laureato in scienze politiche con 110 e lode. Se ce l'ho fatta, e anche grazie al podcast della Zanzara, perché mi fate ridere ogni giorno. Grazie, vi adoro. Allora ragazzi, uno dice 2500 euro per il busto di Hitler, esagerato, eccetera, eccetera. Però mi deve mandare un messaggio al WhatsApp 393 71 71 701, dando anche delle indicazioni. Non è che uno può sparare 2500. Io resto ai 600 euro offerti dal signore un po' nazista di prima che ci ha chiamato. Allora, se Cattelan vale, finisce in buone mani. Allora, se Cattelan vale 17 milioni, la statuetta di Hitler in ginocchio, lo capisco che possa valere 17 milioni di dollari. La statuetta di Cruciani, la piccola statuetta di Cruciani, che è stata regalata a Cruciani da un collezionista di epoca 33-39, da un collezionista toscano. Ma pensa quello quando si incazza che tu gliela la riveguadagni sul regalo. Gliel'ho detto, assolutamente. No, ma gliel'ho detto. È come se io vendessi un regalo. Ma no, me l'ha regalata quando io ho detto alla radio che ero collezionista di busti, mi ha regalato questa cosa qui. La notizia di Cattelan, che ha incassato 17 milioni di dollari per una statuetta di Hitler in ginocchio, una bellissima statuetta, mi ha fatto venire in mente, va bene, mi voglio fare un regalo, adesso vendo questa piccola statuetta di Hitler, periodo 33-39. Io resto ai 600, i 2005 vanno certificati con tanto di IBAN il suo, così controlliamo se è tutto vero. Allora, ma siamo con Vladimir Luxuria, che ha detto che a Roma voterà per il signor Giachetti. Sai che io a Roma sarei veramente incerto, caro Parenzo. Meno male che voto a Milano, Poi dichiarerò più avanti per chi voto. E tu voti a Roma, è vero? Chi voti? Giachettone? Io voto a Roma, voterò preferenza, la darò a Zannola sicuramente. Oddio, ragazzi, che coglioni con sta storia. E poi? Preferenza la do sicuramente a Zannola. Vabbè, l'abbiamo già detto, benissimo. Non ce ne frega un cazzo. Poi? Quello sicuro. Potrei fare anche il voto disgiunto, guarda, non lo so ancora. Cioè, chi voti? Non ho capito, ancora non lo sai. No, sicuramente lo so. Zannola, però poi potevi votare Giachetti, però... è troppo, Cioè, tre è troppo. Hai detto già una volta che voti questo tizio qua, ripeterlo troppo. Sì, il resto non mi convince molto il resto, però ecco, no, per questo no ti risponderei tranquillamente. No, Marchini non posso votarlo perché c'è dentro la Mussolini, c'è dentro questa, capito, questa compagnia di giro qua. Ah, Vladimir, hai visto la Mussolini con Marchini? Sì, ho visto, c'è anche Storace, credo, con Martini. Sì, anche Storace, tutto si spiega, ma io avevo detto che avrei votato per Marchini già da te. Per Giachetti. Ma spieghi una cosa, ma la Mussolini... Anche prima che Fassina, no, succedesse tutto il casino, perché alcuni magari possono pensare che adesso io voto Giachetti perché Fassina non si sa se le era proprio... Senti, Vladimir, non ho capito una cosa, ma ti stupisce che la Mussolini sia capolista di Forza Italia con Marchini? Cioè, Mussolini. Lei fa Forza Italia, no? Sta dentro Forza Italia, per cui Forza Italia appoggia Marchini e non ci vedo niente di strano. Se la sorella invece appoggia la Meloni, quindi... Se sono divisi. No? Sono divise le sorelle, sì. Non alla nascita, ma... Ci sono più Mussolini adesso di quando c'era lui, pensa a te che vantaggio. Una roba incredibile. Più Mussolini, una volta ce n'era uno, dici cazzo, bastava uno, era lì, vabbè, d'accordo. Adesso si sono moltiplicati, impiccato l'uomo lì, finito il personaggio, adesso si sono un po' stupendo. Senti, ma tu, Bradi, in caso di un ballottaggio tra Raggi e la Meloni, chi voteresti? Mettiamo che sia prendo la cittadinanza a Milano. Ma non esagerare. Riprendo la residenza a Milano. Ma non esagerare. Io... ti dico la verità, non andrei a votare perché io dopo il voltafaccia degli azzeccagarbugli dei 5 Stelle sulla questione delle unioni civili al Senato mi fido di questa gente. Cioè non ti fidi dei 5 Stelle? No, poi la proposta qual è? A Funivia, dai, vabbè. Vabbè, ma la Funivia è una proposta così, mica è una proposta, seria, no. Dai. Cioè, no, l'ha proposta la Raggi. Ha detto che si possono fare alcune funivie a Roma, funivie. eccetera. Dai, vabbè, ho capito. Senti, non ho capito, alle Iene sei andato a fare un servizio nei bagni, no? In North Carolina c'è questa legge, credo lo spunto fosse quello, questa legge che prevede il fatto che gli omosessuali contestata con ricorsi alla Corte Suprema eccetera eccetera, i transessuali devono andare nel bagno, diciamo, tu dovresti andare nel bagno degli uomini praticamente, non nel bagno delle donne. Ma tu oggi in Italia in che bagni vai? Tanto per cominciare, questa è la dimostrazione che non è che solo i politici in Italia a volte non hanno un cazzo da fare, anche in America ogni tanto, perché molto mi devi dire se questa può essere nelle preoccupazioni di un americano che si sveglia la mattina e oddio se vado al bagno delle donne viene appisciata trans che cosa succede, anche perché ci sono le porte che si chiudono, quindi vabbè. Io vado a pisciare nei bagni delle donne, perché come ho dimostrato nel servizio delle Iene, se una come me va nel bagno degli uomini e io sono andato al pisciatoio, a quella a fianco gli si blocca il flusso urinario, tant'è che me lo dicevano: scusa, guarda, sono in imbarazzo, non ci riesco a farla, ti devi allontanare, hai capito? Vabbè, ma sarà successo una volta, che vuol dire sei imbarazzato? Non ho capito, perché ti riconoscevano come personaggio pubblico, non come, cioè, non come transessuale. Cioè, se arriva uno vestito da donna, più o meno, che tira fuori l'uccello e piscia dentro l'orinatoio, non è che gli altri si bloccano, tu ti bloccheresti, Parezzo? Beh, no, ma è un tema che è un problema che non mi pongo, diciamo, questo qui. Cioè, tu comunque, in Italia ha ragione Vladimir Luxuri, cioè, qui si pone un problema simile è un idiota, ma no, per dire poco. Sì, ma figurati, ma tu infatti guarda, io vorrei andare in North Carolina e pisciare nel prato del Parlamento dello Stato del North Carolina. Credo almeno che ti arrestino, credo che è meglio che tu... Ma è quello dovresti fare. Lì sono severi, eh? Io credo che così sei contento. No, non sono contento, però dovresti fare questo, dovresti fare la grande protesta. Oddio, North Carolina non ne frega un cazzo a nessuno, dunque puoi evitare anche di farlo. Però se andassi là, vedrai che, cioè, vedresti, vai a finire in galera sicuro, cioè, se ti metti a fare Non riesci neanche a mimare il gesto, secondo arrivano me. Arrivano subito i poliziotti e via. Senti una cosa, ma quindi in Italia con la prova, diciamo, con il reato nelle mani. Esatto, ma tu non ho capito una cosa, tu quando vai nei bagni in Italia sì, in Francia, bagno, no, ma sono curioso perché ci fu una vecchia polemica con la Gardini, sì, no, ai bagni del Parlamento, una polemica di 10 anni fa ormai, 2006, quando tu eri in Parlamento, non succede nulla, c'è qualche donna che ogni tanto dice scusa, però qui tu alla fine c'hai un'altra cosa. No, guarda, io l'unica stronza l'ho trovata al Parlamento, credimi, mai avuto problemi, ma anche prima che diventassi famosa. Ma guarda che la gente mica è così stronza come uno chiede, ma la gente lo capisce questo. A parte quando tu entri non è che si vede quello che fanno gli altri, ma no, vabbè, certo. Quindi anzi, cioè, veramente mai avuto, l'unica volta che ho avuto mai nei bagni pubblici, ma niente, anzi a volte quando magari mi specchio e mi ripasso il rossetto oppure il fondotinta, qualcuno mi ha pure chiesto il fondotinta in prestito, quindi non è neanche questo, è proprio che, ma infatti chi lo fa non lo fa perché ci crede davvero, lo fa per polemica, per filo di polemica, perché tu vedi che problema ti può creare una cosa del genere. No, problema no, però magari problema. Tu che ne so, tu come la fai la pipì, seduta o in piedi? Io la faccio seduta. Ah, tu la fai seduta? Sì, la faccio seduta. Beh, questo lo si insegna anche a molti bambini maschi a farla seduta. Tu la fai seduta, Parenzo, la pipì? Come la fai? No, adesso io faccio normalmente, ma so che ci sono molte mamme che insegnano ai loro bambini a farla seduta. Insomma, ma perché la fai seduta? Così, per come le donne praticamente, ti immedesimi in questo? Non lo so, mi viene proprio istintivo. Cioè, ma questo anche quando eri più, anche quando eri più giovane? L'ho sempre fatta seduta. Beh, capito. Perché ti incuriosisce così? Non sbagli mai mira. No, lo sbagli mai mira, no, le abitudini però sono significative. Anche qui la tua tendenza, come dire, no, quando eri più giovane, un po' femminile, cioè il guadagno maschio già da queste cose qui si vedeva che era verso un'altra roba, o no? Ma non è vero. Io l'unica volta che sono andato in un pisciatoio in piedi è stato per fare il servizio delle Iene. Era la prima volta che hai pisciato in piedi alle Iene, sì, la prima volta. Vabbè ragazzi, sappiamo delle cose, la verità di clamorose, le cose clamorose. Ti abbraccio e ci sentiamo presto, ciao Vlad. Volentieri, ciao. Ciao. Marijuana e zanzara, marijuana e zanzara, viva la zanzara, ciao Cruciam. La zanzara. Davide, cazzo, lo strano sei tu, che non conci tua figlia a 9 anni come una mignota, che non ti apprendi bene a mangiare i lombrichi e non che non ti arrabbi a leccare i piedi. Oh, mettitelo in testa. Ma vaffanculo, Cruciani. Wind. Pietro da Vicenza, vai Pietro. Buonasera. Dimmi. Senta, io ho telefonato perché stavo ascoltando prima il dialogo che avete avuto con Luxuria. Sì. E sinceramente un po' relativamente all'argomento unioni civili e quant'altro. Cioè, sì. Allora io vi ascolto molto spesso, mi piace il vostro programma. Sì. Allora? Siete forti, Tu sei un bravo provocatore, il tuo collega lì, catto comunista, sarebbe meglio lo stesso. Beh, dito, catto non no, importa. Però... comunista, allora diciamo comunista. Neanche comunista, perché non ci sono più. Ma però no, va bene, andiamo dai, avanti, non vabbè, importa. Non importa, dai, non importa. La cosa che mi ha veramente dato fastidio, cioè sentire che la buttate così sul discorso da bar, di Luxuria, parlando delle unioni civili che sinceramente ormai hanno rotto proprio le palle, mi voglio no, veramente ne abbiamo diplomaticamente fermo lasciami finire fermo tu un attimo, no, abbiamo lasciami finire, no, non interrompermi perché è un altro l'argomento. Senti, che mi ha amico mio, amico amico no, mio, io non sono amico tuo, sono amico mio, amico finire, mio, amico mio, quello che fammi tu finire. Il modo in cui tu intervieni lo decido io. Chiaro? Lo decido tu fammi io. Intervenire, fammi finire lo decido io. Dire... lo decido io. Come, quando e perché. Chiaro? Le regole le dai. Decido io. Se io voglio interrompere, dai. Interrompo. Dai, per cui vai. Allora. Dai, forza, ecco, dimmi. Che cosa per mi vuoi finire, dire? Cioè, quando ho toccato l'argomento, sì. Ma i ginecologi che sono contro l'aborto, sì, assolutamente. Dovrebbero cambiare lavoro. Assolutamente. Ma di che cazzo state parlando? Assolutamente. Assolutamente. Ma voi lo sapete? Cambiare ma lavoro ragazzi, immediatamente. Ma... cambiare ma lavoro immediatamente. Che lavoro fa un ginecologo che parli di queste cose? Lo senti, sai, Pietro, parli? Io ho detto semplicemente una cosa. Se tutti fossero obiettori, verrebbe meno. Io ho detto, guarda, io vengo da una famiglia di medici, dunque non mi rompere i coglioni. Ma allora, no, Pietro. No, non rompere i coglioni te perché non sai neanche di cosa parli. Allora. No, so benissimo di che cosa parli. Sai che i ginecologi al 90% lottano tutti i giorni per far nascere dei bambini. Cioè, assolutamente sì, assolutamente. Allora fanno bene quando obiettano, perché lo sai tu meglio di me che sei uno sveglio, lo sai, che il 90% delle donne che vanno ad abortire, voglio dire il 90% sì. Per non dire qualcosa di più, lo fanno perché si sono svegliate una mattina ed erano incinte. Senti, non sto parlando di chi ha problemi di salute. Ma che ne sai tu? Ma che hai fatto? Una statistica? Ma che dai, hai fatto? Non fate finta di non sapere che siete ridicoli. Tu sei troppo sveglio. Ma e allora è una sentinella in piedi, non ho capito. Non ho capito, ma Pietro. Non, non ho capito. Allora, secondo te uno non dovrebbe abortire mai? Aspetta, no. Cioè no, va tolto l'aborto, va cancellato l'aborto, non ho capito. Ti ho detto, a parte i casi o di malattia o di violenza o situazioni ma c'è già la legge che prevede non... quando si può fare ma lascia stare voi avete ma non, detto, c'è, ma non c'è lei voi. Aspetta un attimo, aspetta un attimo voi. Pietro non ho capito ma secondo te l'aborto per scelta non deve esistere? Quando la scelta è perché è una cosa che è capitata no non dovrebbe non dovrebbe esistere benissimo no, allora, ma è chiara... la, ma c'è la legge che lo dice questo grazie al cazzo che c'è la legge lo sappiamo bisogna dirglielo però perché altrimenti che vuol dire ma lo sa benissimo che c'è la legge allora può cambiare la legge Cruciani, scusami, lasciami finire. Non è importante allora, se vuole cambiare la legge, no, è evidente che la vuole cambiare. Ma è, evidente la che ma è evidente che la vuole cambiare se è contro l'aborto, no? Ma di che parli? Ma dai. Te lo dica allora, Pietro, scusami. Dai. Cruciani, scusami, dopo vi lascio. Un'ultima cosa. Siccome è un argomento, ripeto, abbastanza delicato, che riguarda molte persone. No, no, guarda, io ho detto la semplicemente... cosa, dimmi, ho detto una cosa, che i medici... estremamente fastidio. Che cosa? E sentire blaterare su un argomento così delicato, no. Quella specie di ma come dobbiamo definire quella specie di che ride al telefono ex parlamentare votato da quei quattro comunisti che ancora votano quella gente lì no? Che adesso fa no ma dillo anche quella pervertita quella invertita quella no quella... a me non interessa la perversione semplicemente però una persona che è stata anche parlamentare ok dovrebbe almeno avere l'intelligenza sì. Intelligenza. Senti Pietro il punto è molto semplice io sono d'accordo a parte l'ho detto io tempo fa un medico deve eseguire quello che prevede la legge. Se la legge prevede la possibilità di abortire, un medico deve obbedire alla legge. Se non vuole obbedire Luxuria ha detto che è un bigotto il medico che si oppone. È un bigotto. No, ma parlava di altre cose. Ma comunque lascia ha perdere. Ha detto che è un bigotto. Ma lascia perdere se è bigotto lavoro. No, non mi interessa. Secondo me dovrebbe cambiare lavoro, certo. Secondo me dovrebbe cambiare lavoro. Cambiasse lavoro se non vuole. Non la dovreste chiamare. Se non vuole. Perché se la trovo io per strada. Che fai? Signora o signore, lì non so come signora, signora. Che è stato in Parlamento, che faceva tutto il santarellino in Parlamento e adesso va a fare la starlet. ma dove cazzo sì, se la incontro ma che fai Cruciani, se la incontri che fai se la incontri che fai non ho capito ma glielo direi in faccia che si deve vergognare non fare il fenomeno i medici obiettori di coscienza sono una contraddizione in termini ma sull'aborto stare, devono Cruciani, obbedire alla legge sei, la legge prevede troppo, la legge prevede che tu devi far abortire una persona perché altrimenti si arriva al paradosso Cruciani, che ci potrebbero Cruciani, essere il 100% di medici Cruciani, abortisti tu sei troppo vabbè, sveglio per non capire quello che ho detto io ma dai, no ma no Pietro qua. Ciao ciao parlate ciao. Di cose che contano dai sì sì Pietro dici tu quelle che contano Cruciani siamo a 6 km dalla dogana di Chiasso ci fermiamo al Maxim tra la zanzara Allora, mio figlio e mio marito fanno la pipì seduti. A mio figlio gliel'ho insegnato io. Sono Beh. L'unica donna in casa e non voglio sedermi sulla pipì degli altri. Sì, è molto Vabbè. Diffusa questa cosa. Mamma lo mia, sapevo. Che fissazioni, che malattie mentali, che, Beh, sì, che paranoie, che paranoie, che paranoie. Insegnare a alzare la tavoletta vabbè, mi pare una cosa... ma sono cose naturali, la pipì degli altri ma se e vai poi familiari. Se, vai, se, vieni, se uno ti invita a cena e tu gli lasci il ricordino in bagno, quello non ti invita più, immagino. Ma quello è un altro discorso, gli ospiti, sugli ospiti no, si può discutere. Insegnare ai bambini ad alzare la tavoletta mi pare un livello Volete minimo di civiltà. Volete crescere dei mostri. No, volete crescere evitate. Dei mostri. So che non ti piace dei la parola no, volete crescere, far crescere dei mostri, delle ma persone che hanno tutto preciso, ma scusa, tutto ma poi faranno il contrario. A con la bocca poi faranno tavola. Il contrario. Poi faranno esattamente vero, il contrario. Ma non è vero. Di quello che gli dite. Il contrario. Io non dico niente, per niente. Esempio, perché alla fine sarà lo, è lo stesso. Tu vuoi insegnare non tutto così preciso? Ma pochissime cose. Pochissime cose. Non, vabbè, se ti no. piace così. È un po' strano, pazzesca, però. Dai, pazzesca, dai, pazzesca. È un po' strano. Andrea da Rimini, vai, Andrea. Ciao, Parenzo. Ascolta, dimmi, dimmi. Io per questa strada di Hitler sono rimasto abbastanza turbato, nel senso so che ma qual è il problema? È pieno delle statue di Hitler in tutta Italia, qual no, è il punto? No, statue no, no per fortuna. No, forse statue quelle, no, insomma. Forse quelle boost. Di Benito Mussolini qua da noi le trovi, ma di Hitler no. Adesso, ho capito, ragazzi, io ho questa roba qui. Cattel non la può vendere, non la posso che, vendere no, io, scusami. Ma io ce l'ho con te, non ce l'ho mica con te. Io ce l'ho con Parenzo che ti sta vicino. No, veramente non è Milano, vicino, a Roma. È a Roma, comunque. Vabbè, è a Roma, vicino virtualmente, virtualmente. Perché voglio dire, è ebreo e tutto quello che. No, ma infatti a me fa schifo la statua di Hitler. La statua, il busto, qualsiasi cosa. Come? No, infatti a me fa schifo la statua e il busto di Hitler. Quindi... Ma tu ti dovevi indignare, tu ti dovevi alzare. Ma di cosa? È sua, chi se ne frega? È sua, la vuol vendere, che la venda. Chi se ne meglio? Ma come chi se ne frega? Se ne frega? Tu predichi bene, razzoli male, scusa, eh. Quando c'è, è il momento di. Inalberarsi per gli ebrei sei sempre il primo. Poi ma se a uno però, però io sono a, se a uno piace avere in casa quell'obbrobrio lì, ma a casa sua può fare quello che gli pare, chi se ne frega. Non sarò certo io a entrare nella casa di una persona e dire non puoi no, avere. No, però ha ragione statua. Andrea. Andrea dice tu, siccome su Hitler ovviamente sei molto intransigente certo, su tante sono... cose, in teoria dovresti alzarti e dire: sentite, andate a fare in culo la statua, bravo, sulle, bravo, la, bravo, l'asta. Giuseppe. Io penso che tu intendi questo. Ma no, la, ma l'asta se tu vuoi sulla guadagnare due lirette con la statua di quello lì e fallo pure. Chi se ne frega? Io venderò un paio di mutande. Se mai che devo fare, a me non interessa niente. Cioè, non ho bisogno di soldi per ora, quindi non vendo niente. Ma voglio dire, non. Chi se ne frega della del busto di Hitler? Vabbè, Maurizio da Modena, vai Maurizio. Mi fa schifo Hitler, ovviamente. Non lo metterei mai in casa mia. Pronto? Maurizio, dimmi. Allora, ti chiamo per due cose. Intanto complimenti delle trasmissioni, la vita ti seguo. Vai Maurizio, dimmi, dai. Allora, primo è la ragazza di Brescia sulle dimensioni. Secondo me, invece della dimensione largo, lungo, duro che duri dalle mie parti, Vabbè, Maurizio, tutto. Quello sempre, Arte amico mio. Quello sempre. Quello sempre. Esatto, quindi le dimensioni sono relative. Vabbè, Maurizio, dai, forza. Seconda cosa, sul busto di Hitler, io insomma vorrei prenderlo anch'io, perché io insomma troverei che è qualcosa di buono con i nostri tempi. Cioè, non ho capito, Hitler avrebbe fatto qualcosa di buono? Ah, sicuramente sì. Tipo? Tipo le migrazioni, tipo... No, le migrazioni che ha fatto sulle migrazioni. Le ha risolte no, in altro modo. Niente, però forse le affrontava in maniera diversa, ok? Cioè, tipo, che avrebbe fatto con gli immigrati? Che urla dietro casa sua, scusa? Che ne so, i cani, che c'ha questi? I cani, che c'hai? sta spogliando qualcosa. Chi c'è? Chi c'hai dietro? Mi fermo, sto facendo una cosa, comunque sto lavorando comunque. Lavorando. Niente, sì, sto lavorando. È da dimostrare. Che lavoro fai, scusami Maurizio? Sto scaricando ai supermercati, in una cantina di supermercati. Quindi... sta scaricando, lavoro, no. Lavoro nobile, non è perché lo pigli per il culo, Davide? No, per carità, benissimo. Fa lo scaricatore. Sì, ottimo. Io la pagnotta in questo modo qua, comunque ok. È per quello che dice. No, Maurizio, scusami una cosa, ma tu sulle migrazioni, sugli immigrati, cosa ha fatto di positivo il signor Hitler? No, non ha fatto nulla. Ah, cosa farebbe adesso? Cosa avrebbe fatto, per esempio? Li fermerebbe se... Beh, su questo, che li fermerebbe, su questo non ci sono dubbi. Appunto, questo... Cioè, tu dici... Perché, scusa, adesso... tu dici la marina militare hitleriana avrebbe reagito diversamente? No, esatto, bravo, bravo. Cioè, bravo, con i barconi, bravo, tu dici, avrebbe reagito diversamente. Sì, oppure avrebbe reagito anche con chi... Con chi ci specula sopra, secondo me. Sì. Sì, perché questa è la questione. Cioè, che cosa faresti tu? Tu bombarderesti i barconi? Ma è pieno di pseudonazisti in Italia, incredibile, ascoltare qua. Non bombarderei i barconi, andrei a trovare a casa chi organizza queste cose qua. Sì, però il signor Hitler avrebbe risolto la situazione in maniera molto più drastica rispetto a quello di... Ho capito, però allora cosa facciamo? Ci cioè, facciamo prendere vabbè, in quel posto sempre. Noi... Vabbè, Maurizio, allora tu abbiamo scoperto che tu alcune cose, cioè ti sta simpatico il signor Hitler, sì, giusto? Sì, io riconsiderei un partito di destra, estrema destra, sì, addirittura il terzo Reich, cioè il terzo Reich, terzo sì, Reich, ma perché ho capito, vogliamo rifare il terzo ascoltare Reich. Qua sembra sia pieno di nazisti, per fortuna non è così, ma va bene Maurizio, e allora dunque che dobbiamo fare con questa statuetta? No, questa ok, se la vendi bene, se no vorrei recuperarla io, se si può avere un numero privato. Ma non ho capito quanti soldi vuoi offrire. Oh, che 1.000 euro, 1.500, ma ce l'hai i soldi o no? Dice che scarichi la merce dagli autobus, dai camion. Bene, ma non vuol dire che non c'ho 1.000 euro perché scarico la merce al supermercato. No, per carità, è così per domandare. Comunque, offri 1.000 euro? Sì. Offri 1.000 euro, mi raccomando, teniamo il numero di telefono, Maurizio. Ciao. Massimo, no, Luca da Bergamo, vai, Luca. Pronto? Dimmi, Luca, dimmi. Ciao, Parenzo, ciao Cruciani. Dimmi. Ascolta, un discorso tecnico. Se gli americani sono andati sulla Luna, sì, per la tecnologia tedesca, se i prigionieri scienziati, diciamo, del Reich, sì, che abbiamo sviluppato già... Ma cosa vuol dire questa roba, scusa? È chiaro che c'erano persone, super laureate, ingegneri, eccetera, eccetera. Erano al servizio di un signore che si chiama Hitler, però. Ti dico, sì, ho capito. E allora che vuol dire? Il terzo Reich è un discorso, Hitler è un altro. Ma allora? Allora... Gli americani sono... Sembriamo pazzi, perché stiamo facendo questo discorso? Però aspetta, è incredibile. Sembriamo la vendita di la vendita privata di un busto scatena quattro idioti che chiamano e si dicono oggi vicini ai... È incredibile. Di regime, se mi lasci parlare, parente. No, ma Luca, il fatto che tu dica che Hitler ha contribuito allo sbarco sulla Luna è una puttanata, cioè non è che Hitler... alcune persone che erano al servizio di Hitler, punto, non Hitler stesso. Hitler se ne sbatteva dello sbarco sulla Luna, se non per piantare sicuramente magari... come persona cosa ha fatto di positivo? E cosa ha fatto di positivo? Ha liberato il duce a campo imperatore? Allora rimaniamo lì. Ma allora cosa ha fatto di positivo secondo te? Spiegami. Sto dicendo, la tecnologia è sviluppata... La tecnologia, ha sviluppato la tecnologia, vabbè, d'accordo. Perfetto, gli americani... Vabbè, sono presi... lo vuoi sto busto o no? Sì, sono guarda, io ce l'ho già. Ce l'hai già, c'è il busto di Hitler a casa. Dunque, sei un ammiratore o no? Oppure sei semplicemente un collezionista? No, ammiratore. Ti dico una cosa, questo forse non la sai. Nel 40... Oddio, però qui non dobbiamo fare la trasmissione di storia. No, dico mio. Nel 40, nella Berlino del 40, esisteva già la televisione. E allora? Mamma mia, pensa, e allora? Incredibile. A livello tecnologico, tu dici che comunque regime, del nazismo avere dato anche un input per un ti credo, inventare dei campi di sterminio ci vuole una certa, come dire, abilità. Quello non c'è dubbio. Ma no, le cose non possono essere distinte. È come se uno ammazza una persona, dice, però poi dieci anni prima operava al cuore in maniera eccezionale. Sì, d'accordo, però poi ha ammazzato una persona. È evidente. Tu hai chiesto cose positive, io ti ho sentito le cose positive. Vabbè, ciao Davide Latina, vai Davide. Ciao. Dimmi. Scusa, io v'annoio, però volevo spiegarvi perché la faccio seduto. Ah, tu ci vuoi spiegare perché la fai seduto alla pipì? Ho scatenato un dibattito con Luxuria qui, sì, d'accordo, sulla pipì seduta. Vabbè, io ragazzi, io la pipì seduta la faccio solamente quando vado a cagare, di solito, perché bravo, insieme si fa anche la pipì, d'accordo. No, vabbè, ma questa è per la spiegazione. Di solito la faccio in piedi, cioè non mi metto seduto. Però, va bene, magari hai ragione tu, perché la fai seduto? Allora, io la faccio solo per due motivi. Il primo è che, in teoria... parla dell'impatto dell'urina sul PC, genera una piccola nube, quindi di che può anche contenere batteri. E poi secondo, cosa che fa molto irritare mia moglie, lo sfrutto quel momento per leggere. Non so se tu leggi in bagno. No, io odio stare in bagno. Odio stare in bagno. No, io invece lo adoro. Molte persone adorano stare in bagno, che è una cosa invece terribile, terrificante. No, tu pensi, io non ho le tende in salotto, ma ce l'ho in bagno. È proprio mamma mia, stare in bagno a lei è una cosa. Mamma mia. Comunque, tu in realtà non vuoi stare con tua moglie, questo è il motivo. Dunque, passi più tempo possibile accesso. Ho il mio spazio, forse. Hai il tuo spazio accesso. Forse il motivo è quello. Garage e il bagno sono in estate. Ciao, Davide. Ciao. Ciao Cruciani, oh, ma sei veramente diventato radio cloaca. Io mi stupisco che qualcuno non abbia ancora scorreggiato in diretta. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da. Perché porti dei limiti? Saxo Bank, fai trading ovunque, da qualsiasi dispositivo. La Zanzara. Cruciani, ieri ho messo in pratica i consigli del sessuologo. Minima penetrazione, massima estrazione. Siamo al top. Ragazzi, andiamo subito a Treviso da Andrea. Vai Andrea. Sì, buonasera Giuseppe. Dimmi. Io sono senza parole, guarda, sono abbattuto, sono triste, sono senza parole. Perché? Proprio. Per la questione della fiducia che mettono domani per il voto sulle unioni civili. E qual è il problema? È triste. Che cos'è triste? È molto triste pensare che un governo ha una settimana, io ti metto assieme... Ma chi se ne frega, senti, di queste cose qui, la fiducia, non fiducia, sono tutti tecnicismi di cui non fotte niente a nessuno, dai Andrea, su. Come non fotte niente a nessuno? Ma approvano una legge, punto e basta, la approveranno, per me potevano fare molto di più, ma chi se ne importa? Magari non ricadrà sulle spalle della gente la prossima settimana, ma tra qualche anno cadrà sulle spalle di tutti. E perché? Che cosa cadrà sulle spalle, scusa? Pensare il futuro di tua figlia o pensare il futuro di mia figlia. Guarda che non credo che il futuro di mia figlia non credo che sarà determinato da questo. Sì, e perché? Spiega. Se destinassero dei fondi per il futuro dei nostri figli, non destinerebbero dei fondi sul futuro dei delle pensioni di reversibilità, delle coppie di unioni. Perché tu dici che costerà dei soldi questa. Costerà dei soldi. Assolutamente. Ma sono loro i soldi. Sì. Sono soldi loro. No, perché può darsi pure che costi dei soldi. Allora, ma che soldi costa? Assolutamente. Sono state fatte delle stime sulla reversibilità delle pensioni. Beh, allora, che Andrea, vuol dire? Sono soldi contributi loro. Non è solo così. Andrea, allora? delle periferie che non succedono. Ma che c'entra questa cosa qui? Cosa c'è? Di Caivano e tutte queste robe qua. Ma che c'entra questo con i gay? Puntare sulle unioni civili. Ma dai. Vabbè, ciao Paolo Perugia. Paolo Perugia, vai. Sì, ciao Giuseppe, ciao Davide. Dimmi. Allora, volevo intervenire sull'aspetto aborto perché ho sentito l'ultimo radioascoltatore che parlava in maniera come se stesse dando dei giudizi e sono rimasto molto molto male perché io purtroppo e mia moglie abbiamo vissuto questa esperienza molto triste poco più di un mese e mezzo fa. Noi siamo sposati, abbiamo già dei figli grandi, sì. E mia moglie è rimasta incinta su una cosa ovviamente che non avevamo cercato, però a dicembre mia moglie è in stato di gravidanza. Dopo un primo momento che eravamo un po', ci dovevamo riprendere, passato questo tutti felici, mia moglie inizia a fare tutti i controlli come da protocollo, come da consigli della ginecologa, per arrivare ai tre mesi che le va a fare la billocentesi. Morale della favola, dopo 10 giorni ci comunicano che nostra figlia, perché era una femmina, era affetta da trisomia 21, quindi sindrome di Down. Sì. All'età nostra abbiamo deciso di interrompere. È stata una scelta dolorosa. Ci avete pensato e avete deciso che non vi sentivate in grado di successivamente di portare avanti. di portare avanti la gravidanza e soprattutto di crescere un figlio in quelle condizioni. Ma anche perché, non tanto per la diversità, ma per l'età, noi avremmo fatto una scelta anche coinvolgendo... Vabbè, ma non c'è bisogno che la spieghi, è una scelta legittima prevista dalla legge, non è che avete fatto... Allora, io non ti dico, la ginecologa ci dice, allora io non ci sono, abbiamo già fissato per il lunedì con il primario di seguire lui perché sono tutti obiettori di coscienza all'ospedale di Sinigallia. Bene. Andiamo all'ospedale, il primario non sapeva nulla, ci ha fatto tornare a casa e tornare su tre volte, quindi tre giorni, non ti dico mia moglie com'era, ci hanno relegato e sottolineo relegato in una stanza abbandonati e veniva soltanto un'ostetrica ogni tre ore per indurre mia moglie attraverso il medicinale a un parto forzato, quindi alle contrazioni. Mia moglie dalle 9 della mattina fino alle 7 della sera ha avuto delle contrazioni, non ha avuto un minimo di assistenza psicologica. Ma perché erano tutti obiettori? Tutti obiettori. Hai visto la vergogna? Non c'è niente da denunciare. Purtroppo no, perché se uno è obiettore, purtroppo la situazione è questa. Quella ci sono associazioni che raccolgono le denunce. Quella descritta da Paolo, secondo persone come Adinolfi e altri, la moglie di Paolo doveva far nascere un figlio affetto da trisomia 21. Cioè, doveva obbligatoriamente farlo, capito qual è il punto? Obbligatoriamente farlo. La legge allora prevede altra cosa e purtroppo ci sono delle persone che sono in Italia, sono... Ma lei doveva denunciare l'ospedale, però possono... se non l'assistenza giusta. Giuseppe, scusatemi, ma io allora perché mia moglie deve fare i controlli per verificare se il figlio è in salute oppure no? Allora non li facciamo. Uno una certa età, resta incinta, come va? Certo. Dice, ragazzi, dovete sapere che c'è una percentuale. Guarda, quello che mi stai raccontando, Paolo, è la dimostrazione di quello che dico prima, che l'obiezione di coscienza è una cosa assurda. È prevista dalla legge, questo lo sappiamo. Purtroppo è prevista dalla legge, ma se tu sei un medico, devi seguire la legge, siccome l'aborto è ormai riconosciuto da un sacco di anni, non rompessero i coglioni, gli obiettori di coscienza facessero un altro mestiere. Dovrebbero fare un altro lavoro. Facessero un altro tipo di specializzazione, eccetera, eccetera. Se tu fai quel mestiere lì, già così, devi essere preparato è a far abortire. Così, se in un posto ci sono 8 medici e tutti 8 sono obiettori, c'è l'obbligo di fare l'intervento di interruzione di gravidanza. Va bene, ragazzi, però non scendiamo nei dettagli di una cosa. Mi pare guarda, mia però moglie non così. Ha avuto, non è stata prevista. Ma uno passa un inferno, come ti hanno raccontato questo, certo, dai. Ma io figuriamoci, se io sono dalla parte di questo signore, ciao, qui Paolo, figuriamoci, ciao, anzi. Ciao. Let's go. Vai, Rossella Bianchi, vai. Ciao Rossella. Ciao, buonasera. Volevo dire innanzitutto a quel signor Andrea di Treviso che se ha dei problemi con le leggi italiane sui patti civili potrebbe andare a vivere in Mozambico o in Arabia Saudita e lì il problema non ce l'ha. Questo non c'è dubbio, cara Rossella, però sai, ognuno ha anche il diritto di pensare in maniera diversa. Certo, però il consiglio che gli davo, se questo non gli va bene, può andare a vivere in un paese dove questi diritti civili, pochi paesi ormai, poco da scegliere. Non ci sono. Allora, Rossella Bianchi è una transessuale, autrice di un libro che si chiama Angeli con le ali bagnate, edito in Primatur, il secondo libro che ha fatto. È stata e chi sono gli angeli con le ali bagnate? Angeli con le ali bagnate penso che siano, immagino che siano i transessuali, o sbaglio? No, gli angeli, tutti i bambini quando nascono, io parto dal concetto che tutti i bambini quando nascono sono angeli. Alcuni nascono con le ali bagnate, non sono necessariamente trans, possono essere anche bambini tu con sei handicap. Nata, tu sei nata con le ali bagnate? Sono nata con le ali bagnate, perché nella mia situazione di diverso ho avuto un problema a volare, molti problemi a volare come li hanno tutti quelli come Quanti anni hai, Rossella? Io ho passato i 70. Hai passato i 70. Caspita. E fai ancora la prostituta? No, diciamo che così ancora per affezione qualcuno, così tipo part-time. Cioè ogni tanto... deformazione professionale più che bello per... questa cosa qua, prostituta per deformazione professionale. Cioè quanti clienti fai più o meno? Ma non mi interessa il numero, mi interessa la qualità, pochi e buoni. Che ne so, 2-3 a settimana, nemmeno, no? Sì, 4-5. 4-5 a settimana. Ma campi ancora grazie a quello oppure fai qualche altra cosa? Ma diciamo diciamo che 50 anni di attività non è che me li sono sperperati tutti. Ah, hai messo qualcosa da parte. È chiaro, è chiaro. Senti, però, e poi qualcosa. Diciamo che quei libri non si mangerebbe. Esatto, perché... quello sicuro. Lo sai, no? Senti, Rossella, però ti voglio chiedere una cosa. Tu, Rossella, che nella vita precedente era, immagino. Beh, ormai sono passati un sacco di anni, non c'è bisogno. Come ti chiamavi? Come ti chiamavi, Rossella? Diciamo che il nome che mi chiamavo si è rimasto sul documento, quindi non me lo sono dimenticato, giusto per quello. Mario Bianchi o Mario una... esatto. Va bene. Mario Bianchi, io voglio chiederti una cosa: ma è vero che secondo te la condizione obbligatoria di un transessuale oggi è la prostituzione, cioè non c'è altra strada? Diciamo che oggi forse non è più così obbligatoria. È la più comune, ma non la più obbligatoria. A 50 anni fa, ai miei tempi, anche 60 quasi, sì, era praticamente obbligatoria. O ti prostituivi oppure... Le famiglie non ti accettavano, la scuola non ti accettava, la società non ti accettava, nessuno ti dava un lavoro. Quindi dimmi qual era la soluzione. Mica o uno andava a rubare o andava a fare di peggio, se no... Ma secondo te oggi no, è diverso? È cambiato? Ma diciamo che la facciata apparentemente è cambiata, ma poi stringi non è molto cambiata, c'è molta ipocrisia in questa finta accettazione, perché in televisione tutti sono favorevoli al fatto che uno sia trans, che uno sia gay, non ha nessuna importanza. E invece quando vai a chiedere un lavoro così normale, vai a chiedere un lavoro e poi tira fuori il documento da uomo con il nome maschile e poi vedrai se il lavoro te lo danno. Senti una cosa, ma qualcuno ci ha fatto anche una carriera, guarda la signora Efe Ball per esempio con la prostituzione. Sono casi eccezionali che confermano la regola comunque. Non senti, ma secondo te chi va... le prerogative fisiche della Efebal, No, certo. C'è anche 70 anni la signora, quindi. Insomma. Beh, sì, quella è più giovane, certo. Ma dimmi una cosa, ma chi va con i transessuali? Oggi c'è una grande richiesta, dicono, di transessuali, no? Sono molto richiesti dal mercato. Ma diciamo che erano più richiesti negli anni 70, 80, 90. No, secondo me no. Secondo me adesso hai sbagliato epoca, mi dispiace. È finita l'epoca mitica del trans... È un po' finita, sì, però sì, c'è ancora Ma chi va, secondo te, è omosessuale oppure no? Io sono convinto di no. Cioè, non è omosessuale perché l'omosessuale rifiuta il rapporto con il trans. Al massimo, diciamo, bisessuale. Ora, l'eterosessuale puro è una categoria quasi estinta, perché dipende dalle situazioni, dagli incontri. Capito? L'eterosessuale pure è quasi estinta. Beh, questo lo dice la signora, va benissimo. È quasi estinta, dai, è finita questa. Troppo pessimista. Non mi risulta, diciamo, da quel che vedo in giro. In teoria le strade sono piene di etero. In pratica sono molto. Tu lo sai che Rossella è stata con un sacco di preti, caro Davide? Vabbè, è questo. Pieno un sacco di preti, no, ma siccome preti... Io nel quartiere dove io lavoravo, che era il ghetto ebraico lì a Genova, venivano, c'erano le prostitute, c'erano i travestiti e andavano indifferentemente sia con gli uni che con gli altri, quindi ho avuto anch'io... Ecco, ma il prete più strano che hai incontrato qual è stato? Qual è stata l'esperienza col prete più strano, il prete più bizzarro? Più strano è quel prete più strano che veniva con tutti i santini, li spargeva sul letto e si denudava e sputava sui santini e io dovevo punire frustandolo fino a fargli sanguinare le natiche, ecco, questa era. E bestemmiava pure magari. E bestemmiava, sì. Mentre sputava, bestemmiava. Ma diciamo, questo però... in che anni era? Molto ecclesiastico. Ma in che anni, Rossella? Io questo sto parlando degli inizi anni, fine anni 70 o inizi anni 80, no, fine anni 70. E invece l'esperienza più strana che hai avuto in questa lunghissima carriera che racconti nel libro, naturalmente, qual è stata? Mi dicono con un nano, con un signor nano. No, forse è ancora più strana quello con la sindrome del sequestrato. Cioè, qual è quello della sindrome del sequestrato? Allora, veniva, si faceva denudare, legare e chiudere in un armadio. Mi consegnava una lettera con un numero di telefono, io dovevo telefonare a questo suo amico. Sì. E dirgli che lui era sotto sequestro e che doveva portare una determinata cifra per essere liberato. Quando l'amico veniva e portava la cifra, io gli liberavo una mano e lui si masturbava e la storia era finita, non dovevo neanche toccare. E qual era la cosa? Cioè, il godimento qual era? Il godimento era nel sentirsi sequestrato, infatti lui mi faceva delle domande: se mio amico adesso non viene, cosa mi fa? Muori di sete. disidratato, non avrai né da bere né da mangiare. Cioè, il godimento era sentirsi sequestrato. Vabbè, ragazzi. Sentirsi e il nano invece? Il nano? Ah, il nano invece si metteva nel centro della stanza, nudo. Il nano e gobbo. Si metteva, gobbo, si metteva nel centro della stanza, voleva il nano e gobbo il trans, che roba? 8-10 trans. Circondato da 8-10 trans e poi? E ci dovevamo sputare e dire nano bastardo, tutti più le fanti che ci venivano in mente, e lui si eccitava così. Ma cos'è, un film dell'orrore? Che roba? Ragazzi, ma 50 anni di carriera. Per dire le cose più strane, se è inutile che ti parlo dei rapporti normali, queste sono le eccezioni. Beh, certo, vabbè, chiaro. Beh, te credo. Ma è vero che uno voleva sputare. È vero che uno voleva ma andare c'era anche la... uno che sarebbe diventato un deputato, vuoi buon anno lì in questo circo che lei descrive. Buon anno, insomma, sai, quell'ambiente lì, che ne sai? Beh, di politici ne ho conosciuti molti, lasciamo perdere. Immagino. Politici, calciatori, queste categorie che naturalmente non lo chiarirebbero mai. Ciao Rossella, ti abbraccio, ciao. Le avventure di Rossella Bianchi, 50 anni di carriera. A domani, ragazzi. Beh, ragazzi, io quando ascolto la Zanzara mi sento libero. Mi sento una persona libera. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh. Radio 24. La passione si sente.